Il punto di Stefano Folli. Dunque, il voto di fiducia sulla legge di stabilità stabilisce in via ufficiale che la maggioranza c'è, sebbene piuttosto esigua al Senato. La rottura di Berlusconi non provoca la caduta del governo, come era ormai chiaro, piuttosto mette Letta e i suoi ministri nella necessità di operare con energia, molta più energia di quella dimostrata finora, perché ora le larghe intese si sono ristrette e l'esecutivo sarà sotto tiro in Parlamento da parte di un'opposizione agguerrita in cui la nuova Forza Italia farà concorrenza a Grillo e viceversa. A proposito di Berlusconi, oggi sarà espulso dal Senato e diventerà a tutti gli effetti un leader extraparlamentare carico di rancore verso le istituzioni, a cominciare dal capo dello Stato. È un fatto senza precedenti, trattandosi di un uomo che è stato più volte Presidente del Consiglio, ma è anche senza precedenti che un ex Premier sia escluso dal Parlamento per via di una condanna giudiziaria. Comunque si voglia giudicarlo, un passaggio delicato, con molte incognite.